Tutti iniziamo il programma Zardins Magnetics che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20:15 alle 21:30. Andiamo con quella che è la nostra consueta sigla, ovvero il brano Retribution dei Behind Enemy Lines. Ascoltato la sigla di questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane qui a Udine, e andremo avanti fino alle ore 21:30. Quelli che abbiamo ascoltato erano i Behind Enemy Lines, il brano Retribution, ripeto, sigla di questo programma. Comunque, ora andiamo all'ascolto di questo album uscito nel 2012, loro sono gli Into the Baobab, band che gravita nella zona di Bologna, e questo è il loro album Verdi Acidi Pensieri del 2012. We'll be right back. Allora, iniziamo così gli interventi con la presentazione di un'iniziativa che si svolgerà sabato 12 dicembre nel pomeriggio a Trieste. Si tratta di un'iniziativa anticarceraria appunto davanti al carcere del Coroneo. E contemporaneamente anche in altre città d'Italia si svolgono altri presidi sabato 12 dicembre. Ricordiamo che sabato 12 dicembre 1969 è la data che ricorda la strage di Piazza Fontana ed è un'occasione in questo caso per parlare delle stragi di Stato, ad esempio le stragi di Stato dentro le carceri. Ricordiamo tutti ciò che è successo a marzo dello scorso, sì, lo scorso marzo, insomma, marzo del 2020. E appunto, oltre a Trieste ci saranno presidi anche sotto le carceri di Torino, di Parma, di Milano e poi una iniziativa anche a Bologna. Allora, vi leggo il volantino di indizione di questo presidio al Coroneo, appunto per sabato 12 a partire dalle ore 14. Così in una trappola. Fuori dalle mura di un carcere, gli uomini e le donne di questo paese possono ancora avere qualche residuo di libertà di scelta. Se uno ha i soldi, può permettersi una sanità su misura del suo portafoglio. Chi invece ha le tasche vuote, forse si può ancora appellare a un sistema sanitario nazionale, anche se saccheggiato da tagli e privatizzazioni. Nei posti in cui le persone sono rinchiuse forzatamente, come un CPR, una REMS o in un carcere, la sanità diventa qualcosa che spesso non si percepisce. Se già prima del febbraio 2020 nei luoghi di reclusione la sanità era da una parte scadente e assente, da un'altra è sempre stata subordinata alle decisioni del DAP, cioè del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, che a suo comando fa e disfa come più gli aggrada, senza tener conto delle molteplici esigenze delle persone detenute. Senza contare la diffusione sempre presente degli unici farmaci disponibili, da una parte gli psicofarmaci, dall'altra la tachipirina, come unico rimedio a tutti i mali. Per chi non è mai stato dentro un carcere è difficile. Scusate, per chi non è mai stato dentro un carcere, è difficile comprendere la vita all'interno, soprattutto nelle sezioni comuni, dove la popolazione detenuta è costretta a vivere in luoghi stretti, spesso sporchi o in generale malsani. Una persona rinchiusa nel tempo sente l'effetto di quelle mura attorno e della costante violenza perpetrata dal sistema carcere. Se già l'esistenza di questo sistema è di per sé violenza, bisogna sommarci la violenza, a volte anche fisica, della direzione, delle guardie, di medici, psichiatri e altri soggetti collusi e negligenti. Non esiste carcere senza violenza. Il carcere è violenza contro tutti gli individui dentro rinchiusi. A marzo, in decine di carceri, i detenuti e le detenute si sono ribellate per la mancanza di informazioni sulla prevenzione del virus, la paura di morire come topi in trappola, ben sapendo che la sanità in quei luoghi è assente. La risposta dello Stato è stata feroce. Piombo sparato a Modena, botte su centinaia di detenuti, umiliazioni come la rasatura dei capelli e delle barbe, torture perpetrate sulla pelle dei ribelli. Senza contare le irresponsabili traduzioni di centinaia di detenuti in altre carceri, espandendo così il contagio in luoghi in cui il virus non era ancora entrato, come successe in primavera dal carcere di Bologna a quello di Tolmezzo. Ora, con la cosiddetta seconda ondata di contagi, nelle carceri si contano quasi 830 contagiati tra i detenuti e 1042 tra le guardie e il personale esterno. Ad esempio, nel carcere di Tolmezzo, c'è il più ampio focolaio, il più ampio focolaio in Italia. I dati sono del 1° dicembre. Ci sono 193 detenuti contagiati su 203 presenti, cioè circa una decina di detenuti è negativo, tutti gli altri sono positivi, e circa 16 tra carcerieri e personale civile. Poi su Tolmezzo, in un secondo intervento, faremo un approfondimento. Anche al carcere del Coroneo il contagio si sta diffondendo, ancora una volta a causa di secondini e infermieri. In questo caso abbiamo dati di oggi, cioè del 10 dicembre. Su un totale di 186 presenze ci sono 30 detenuti della sezione maschile positivi e 20 detenute della sezione femminile, tenendo presente che nella sezione femminile ci sono solamente 26 detenute, quindi 20 su 26 sono positive. Quindi la situazione è tragica e tra l'altro da oggi la direzione del carcere ha deciso di non far entrare più nessuno in carcere, cioè nessun altro arrestato, diciamo, e di inviare eventuali nuovi arresti in altri carceri. Poi diremo una cosa anche su questo, cioè su questa tendenza del DAP a creare anche dei luoghi specifici, diciamo delle carceri dedicate ai prigionieri positivi. E questo avviene a Rovigo, cioè dovrebbe avvenire a Rovigo, non è ancora, diciamo, esecutiva questa cosa. Invece a Spini di Gardolo, Trento, questa cosa già si realizza ed è una roba demenziale. Continuo a leggere il volantino. Lo Stato in questi mesi ha dimostrato che non è interessato alla salute dei propri cittadini. Ad esempio, per quanto riguarda la prevenzione sanitaria, le assunzioni di personale sanitario, agendo sulle cause da cui si sviluppano i virus. Si pensi solo allo sfruttamento degli animali negli allevamenti intensivi. Lo Stato ha risposto dando soldi alle industrie, alle infrastrutture devastanti per l'ambiente come il TAV, e schierando polizia, esercito e continuando imperterrito a dirottare le risorse sullo sviluppo di sofisticati apparati di sorveglianza nelle carceri, ma non solo, anche nelle strade, nel controllo delle frontiere terrestri e sui mari. Invece di intervenire sul sovraffollamento carcerario, si sono bloccati i termini di prescrizione della carcerazione preventiva, riempendo ancora di più galere, prive di igiene e di assistenza sanitaria reale. I detenuti e le detenute sono prive di contatti fisici con i propri parenti durante i colloqui. Hanno subito per mesi il blocco dei pacchi e il terrore diffuso tramite la repressione, dopo le rivolte di marzo. Tutto ciò ha fatto sì che la vita dentro le mura sia ancora più pesante, ma le proteste si diffondono ancora. Una parte dei prigionieri sa che solo lottando potrà strappare dei miglioramenti e far uscire la sua voce. Noi, fuori, vogliamo essergli vicini e solidali, portare la loro voce nelle strade e far capire come loro, da dentro, spesso ci indicano la via, cioè che è solo con la lotta che potremo liberare la nostra vita. Per tutto questo, sabato 12 dicembre, dalle ore 14, saremo davanti al carcere del Coroneo a Trieste. Assemblea permanente contro il carcere e la repressione. Mezzo, 16 novembre 2020. Oggi ho telefonato all'avvocata e dunque già sai che sono positivo al Covid-19. Siamo tutti positivi. È stata la cronaca di un contagio annunciato, avendo io segnalato e denunciato parecchie volte la volontà di diffondere il virus, e così è stato. Il primo che ha avuto i sintomi li ha riferiti al medico il 7 novembre, ma la risposta è stata che no, non era Covid, ed invece lo era. Ma intanto, per una settimana, hanno permesso che si diffondesse, essendo stato fatto il primo tampone solo il 13 novembre, e dopo insistenze. Ci siamo così contagiati tutti. Io ho avuto forti mal di testa, sbalzi di temperatura, astenia, inappetenza, ora sintomi andati, e assoluta mancanza di gusto e olfatto, a tuttora. Siamo stati isolati, non ci danno nessun farmaco, e i primi giorni non è passato nemmeno il medico a chiedere come stavamo. Molti hanno ad oggi i sintomi, tosse, dolori muscolari, stanchezza. Devo trovare alcune delle istanze con cui lamentavo la strafottenza, la mancanza delle mascherine o il fatto che le portavano, chi la portava, ostentatamente sotto il naso. Hanno anche rigettato il reclamo e abbiamo fatto ricorso per Cassazione. Solo ora che siamo tutti contagiati, stanno facendo come chiedevo io, ossia evitare la battitura delle inferriate quando siamo in camera ed evitare le continue inutili, stupide perquisizioni. Prima dice che lo facevano in sicurezza, sono stato una Cassandra inascoltata. Comunque sto bene. Oggi non mi hanno fatto lo stupido consiglio di disciplina che mi facevano tutte le settimane, perché uso salutare gli altri detenuti, in 5 in uno spazio di 4 metri quadri. Addirittura i primi mesi il consiglio lo facevano senza nemmeno le mascherine, degli idioti. Dicevano che ero io esagerato. Si tratta di pericolosi negazionisti e terrapiattisti, ottusi totalmente, e questi sono i risultati. Ho chiesto di fare la seconda telefonata a causa del Covid, ma a questi non interessa nulla, anzi, sono dispiaciuti che non siamo in gravi condizioni. Ci hanno dato la terapia, antibiotico, antivirali ed eparina. Saluta tutti, Alessio. Questo è uno stralcio di una lettera scritta da Alessio Attanasio, che si trova recluso al 41 bis nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, e che appunto l'ha fatta uscire, insomma, e ha pregato di diffonderla, per dire un po', per introdurre un po' la situazione appunto di cui prima anche parlavamo, di Tolmezzo, dove si contano sulle dita di due mani i negativi, e quindi la stragrande maggioranza della popolazione detenuta è positiva. 5 prigionieri sono all'ospedale e 2 sono in terapia intensiva. E, allora, vediamo un po'. Sì, ecco qua. Vi leggo da un articolo che è apparso su Ristretti Orizzonti. Il carcere di massima sicurezza di Tolmezzo è diventato l'esempio concreto di come l'emergenza può essere arginata solo tramite una riduzione drastica della popolazione detenuta. Detenuti di 2 intere sezioni, oltre ad iniziare una battitura di protesta, hanno intrapreso anche lo sciopero della fame per sostenere, tra le altre cose, l'azione di Rita Bernardini dei radicali, che è arrivata al 21esimo giorno di digiuno proprio per chiedere questa riduzione drastica della popolazione detenuta. Troppi giorni di sciopero della fame e per ora nessuna risposta dal governo e dal ministro della giustizia Bonafede. Da Tolmezzo gli avvocati dei vari prigionieri hanno fatto vari esposti alla procura. Questi esposti chiedono di mettere al vaglio la posizione del magistrato di sorveglianza di Udine. Allora, chiaramente con linguaggi super avvocateschi, quindi incomprensibili, però in pratica questi esposti chiedono, fanno 2 ipotesi, cioè in questo senso chiedono il vaglio del comportamento, diciamo, della condotta del magistrato di sorveglianza, cioè dicono: o il magistrato di sorveglianza è colpevole in quanto non ha svolto il suo compito, che è quello di vigilare sull'istituto di pena e quindi anche su tutte le misure che vengono prese per evitare, in questo caso di pandemia, il contagio. Oppure, allora, quindi se non ha vigilato e non si è occupato di questa faccenda, diciamo, compie un reato. E il reato sarebbe quello di lesioni colpose, oppure Il magistrato di sorveglianza è parte offesa, e cioè è la direzione del carcere che non ha, diciamo, ha manipolato la realtà e non ha comunicato al magistrato di sorveglianza il fatto che all'interno del penitenziario di Tolmezzo non c'è stato, c'è stato un mancato isolamento dei detenuti positivi. E in questo caso il reato lo ha compiuto la direzione carceraria, appunto, e il reato consiste in atti, in omissione di atti d'ufficio e in falso ideologico da parte della direzione del carcere. Allora, questo magari ci interessa poco la, così, l'approccio, diciamo, legale a queste faccende, però è interessante perché in qualche misura questi esposti alla procura cortocircuitano le istituzioni, no? Nel senso che vanno a toccare e la direzione del carcere e anche il magistrato di sorveglianza, che appunto avrebbe questo compito di vigilare sulla salute, sulla buona gestione, diciamo, sulla buona gestione della detenzione, che non deve essere afflittiva più di quello che già è per antonomasia. E allora, rispetto al discorso di sempre di Tolmezzo, e vabbè, vi ho annunciato prima che il 12 dicembre ci sarà un presidio sotto al Coroneo, però abbiamo in programma di realizzare un presidio anche a Tolmezzo. Faremo sapere, insomma, quando ci sarà questo presidio, perché oltre a questa faccenda terribile dello stato di abbandono totale, cioè di strage annunciata proprio all'interno del carcere, a causa di questa diffusione totale del Covid, c'è una notizia che è, appunto, è emersa in questi giorni. Tra l'altro non è emersa da fonti, diciamo, giornalistiche, ma ahimè da un organo di un sindacato di polizia, uno dei peggiori sindacati di polizia dal nostro, cioè dei sindacati di polizia più di destra, dal nostro punto di vista uno dei peggiori, cioè il SAPPE. Questo organo si chiama Polizia Penitenziaria, è un bollettino online, e questi qua si gloriano praticamente, sono tutti contenti perché danno questa notizia, danno la notizia dell'assoluzione di quei secondini che nel maggio del 2019, specificamente 19 maggio 2019, avevano abusato e praticamente erano accusati del reato di tortura, avevano abusato dei mezzi di diciamo punizione, contenzione ai danni di un prigioniero, investendolo con degli idranti ripetutamente e poi lasciandolo nella cella per due giornate, nella cella allagata per due giornate. E questo fatto aveva fatto mobilitare anche il garante nazionale, vabbè, delle persone private della libertà. Il garante aveva fatto una ispezione e si era costituito parte offesa e aveva appunto denunciato in procura queste guardie penitenziarie. E poi si era anche opposto il garante all'archiviazione che era stata proposta dal pubblico ministero, era stata proposta l'archiviazione, invece lui si era opposto, se non che il giudice per le indagini preliminari di Udine ha archiviato il procedimento, quindi ha dato ragione praticamente agli sbirri. Leggo perché è significativo, sarebbe bello sapere anche il nome di questo giudice per le indagini preliminari per sapere con chi si ha a che fare. E dice questo giudice, questo GIP: l'utilizzo dell'idrante era necessitato dal comportamento del detenuto, già noto per intemperanze e danneggiamenti. L'unico aspetto rilevante, costituito dal mancato cambio di cella, era giustificato dal fatto che il detenuto, per il suo comportamento, necessitava di una cella appositamente allestita, esigenza che non poteva essere soddisfatta in tempi stretti. Questa sarebbe, diciamo, una delle motivazioni che alleviano, sì, per cui, insomma, non costituisce reato il comportamento delle guardie penitenziarie. Il GIP dice inoltre che lo svolgimento dei fatti appare pacifico, in quanto l'intera dinamica degli eventi è stata ripresa dall'impianto di videosorveglianza. E ancora, l'impiego dell'idrante, anche se non espressamente previsto dai regolamenti interni, risulta pertanto scriminato dalla causa di giustificazione prevista dall'articolo 53 del Codice Penale, uso legittimo delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, essendo diretto a vincere una resistenza all'autorità. E ancora, questo GIP ci dice: l'impiego dell'idrante non ha provocato danni alla persona. Il detenuto è rimasto 2 giorni nella cella bagnata con il materasso e le altre suppellettili intrise d'acqua, ma la sera stessa gli erano stati comunque forniti indumenti asciutti ed una coperta asciutta. Allora, questa è la schifosa motivazione della che ha portato alla soluzione di questi poliziotti, queste guardie penitenziarie di Tolmezzo, che appunto nel maggio 2019 avevano sottoposto a questo trattamento che si può definire tortura, questo detenuto in prigioniero appunto nella sezione di alta sicurezza AS2. Ecco, quindi non solo per la gestione scandalosa del rischio di contagio da Covid-19, saremo anche a Tolmezzo, ma anche per denunciare popolarmente queste cose, queste prese di posizione di questi magistrati e che cosa c'è. L'impunità veramente della polizia all'interno delle strutture carcerarie. Stiamo ascoltando tuttora in sottofondo questa band di Trieste, i Catastrofa, da questo loro demo che si chiama Miseria Ladra, e comunque l'abbiamo ascoltato anche prima tra i vari interventi e, come già detto, anche ora in sottofondo. We'll be right back. che cazzi coglioni! Anche di bande me, agli ascoltadores e agli ascoltadores di Zardins Magnetics. Questa sera vorrei continuare il discorso iniziato la scorsa settimana con la lettura dell'articolo La parola e la cosa, dalla rivista anarchica I giorni e le notti. L'altra volta si era visto, tra le altre cose, come ogni ipotesi di trasformazione radicale della nostra vita in questa società capitalista è vincolata a un quadro insurrezionale. Avevamo visto cioè come non sia possibile progettare metodi e modalità di vita alternativi alle condizioni imposte del capitalismo senza attraversare un punto di discontinuità, rivoluzionario e di rottura con tali condizioni. Svincolati da una prospettiva del genere, non solo nella prassi, ma anche nella semplice teorizzazione, in quell'articolo si faceva l'esempio del municipalismo di Murray Bookchin, svincolati da una prospettiva del genere, dicevamo, si arriverà con certezza a trasformazioni solo formali, superficiali e estemporanee. L'articolo di cui vorrei parlare stasera riprende questo concetto e mi sembrava significativo continuare il discorso. Si tratta di un articolo del 2008, dal titolo Capitalismo e carattere, noto in margine a Reich, modo d'uso, di Jean-Pierre Voyer. L'autore si chiama Fabrizio Bernardi ed è uno dei curatori del blog Il lato cattivo. Il titolo allude al fatto che la dimensione di dominio reale esercitato dal capitalismo sugli individui oggi è esemplificata a partire dal corazzamento caratteriale, a partire da questa nozione di corazza che consiste appunto nella proliferazione delle proprie immagini di sé sul mercato dell'identità, nella continua produzione e messa in circolazione di immagini egoiche fittizie. Queste immagini sono destinate al consumo e hanno al tempo stesso una natura omologante e differenziante. Esse tendono al raggiungimento di una visibilità sociale, ma a differenza degli antichi paradigmi sociologici ottocenteschi, non centrano l'obiettivo del riconoscimento, in quanto incerte ed effimere conducono al fallimento. Caratteristico della società spettacolare, il susseguirsi di crisi, stati depressivi, ristrutturazioni, nuove identità, che riprende quello che accade sul piano della produzione e riproduzione sociale, si dispiega in un quadro di distacco del corpo dall'io. Il corpo è sottomesso interamente al processo di autovalorizzazione dell'io capitale e perciò tende a essere espropriato della sua immediatezza. È ridotto a mera appendice di un'istanza dematerializzata. We'll be right back. L'indicazione fondamentale di questa situazione di distacco completo del corpo desensibilizzato dalla mente alienata consiste in questo, che gli individui hanno raggiunto una dimensione di indifferenza di fronte a un fatto, il fatto che le condizioni di vita biologica sul pianeta saranno presto soppresse irreversibilmente dal capitalismo in nome del progresso tecnologico. La situazione di indifferenza e la palude concettuale conseguente ha aperto le porte a ogni tipo di tensione recuperatrice e riformatrice, raggiungendo persino quelle realtà che si definiscono di movimento. Il punto da chiarire è che il corpo rimane una realtà immediata e pertanto qualcosa di predisposto alla libertà, che è libertà di rapporti immediati e non libertà meramente individuale. Il corpo rimane un campo di sperimentazione e anche di lotta, e anche attraverso la malattia e la disfunzionalità. Inoltre, il corpo è pure esposto alla frusta di disciplinamento e controllo da parte di tutti i dispositivi che bersagliano le forze più vitali o che comunque le costringono alla stagnazione: istituzioni psichiatriche e post-manicomiali, psicoterapie, eccetera, eccetera. La corazza per Reich è infatti proprio questo strato di saperi di sé che è energia vitale impegnata a neutralizzare se stessa. Facendo tesoro delle conclusioni raggiunte da alcuni tra le figure fondamentali del movimento antipsichiatrico, che hanno mostrato a loro tempo come, ben inteso, all'interno di un processo collettivamente incentivante, il vero legame fondamentale non è la finitezza e l'angoscia di fronte alla morte, mera verità filosofica, ma la ricerca di una comunità di legami, comunità di desiderio e azione in un quadro di prassi rivoluzionarie. I principali esponenti del movimento antipsichiatrico, si diceva, hanno mostrato come un passaggio dalla patologica normalità verso l'autentica salute emozionale è possibile. Si tratterà di prendere la strada che non si allontana, ma attraversa lo stato schizoide che ci rappresenta, in cerca di un nuovo sapere, quindi di un diverso uso di questo sapere. Quindi un articolo di qualche anno fa, ci risulta del 2008, ma tuttora molto denso, che ha sullo sfondo una serie di autori che vorrei qui in conclusione ricordare. Wilhelm Reich, psichiatra e psicanalista austriaco, naturalizzato statunitense. Giorgio Cesarano, scrittore e militante rivoluzionario italiano. Riccardo d'Este, scrittore, anche lui militante rivoluzionario italiano. Tikkun, rivista filosofica e tendenza del movimento dell'autonomia. Bene, questa sera abbiamo provato insieme a dare uno sguardo alla questione della repressione o della soppressione del desiderio, a partire dall'articolo Capitalismo e carattere, noto in margine a Reich modo d'uso di Jean-Pierre Voyer, scritto da Fabrizio Bernardi, che è un curatore, abbiamo già detto, del blog Il Lato Cattivo. Anche per stasera è tutto, un saluto e alla prossima volta. Nella testa voci ripetono, potrebbe essere tutto diverso. Intanto stiamo ascoltando in sottofondo gli Attrito, una band trentina che abbiamo anche ascoltato prima tra gli interventi, e questi brani fanno parte del loro album del 2014 L'attimo del dubbio. Ecco, intanto vi ricordo che siete all'ascolto di Jardins Magnetics in diretta dagli studi di Via Volturno a Udine. E allora, adesso così vi proponiamo un documento che è stato redatto da alcuni compagni anarchici e anarchiche di Trieste. L'argomento è perché, cioè il titolo del documento è Perché non vogliamo foto e video, e appunto parla di questa questione del perché le militanti e i militanti non vogliono che si facciano foto e video durante lo svolgimento di iniziative, di manifestazioni, di presidi, eccetera. Comincio a leggere. Oggi come oggi è sempre più difficile far comprendere dentro e fuori i movimenti il perché fare foto e video è spesso cosa dannosa. L'utilizzo di questi strumenti, e non solo, è sicuramente legato al fatto che oggi tutti possono possederli per utilizzarli come meglio aggrada loro, come se ci fosse un tacito accordo per il quale a tutti e tutte faccia piacere essere fotografati o filmati. Ovviamente, stiamo parlando non di una festa fra amici o di un viaggio, bensì di momenti di lotta, di piazza o comunque di iniziative politiche in generale. Ovviamente possiamo fare delle differenze. Fotografare gli striscioni, dei cartelli affissi, manifesti e così via, non dà alcun problema di sorta. Ma se invece si immortalano le persone, allora sì che comincia ad essere un problema. Oggi la maggior parte delle persone, spesso anche militanti dei vari movimenti, ritengono necessario immortalare questi momenti, sempre e comunque. Come se la necessità fosse più di dover poi documentare questo o quel momento di lotta anziché viverlo, di renderlo statico su uno schermo piuttosto che esserne parte attiva. Purtroppo da molti anni questa società ci ha abituati, chi più chi meno, ad adottare e accettare senza senso critico l'utilizzo di questi strumenti. In molti movimenti invece ci si è posti il problema. C'è chi utilizza le riprese in modo strumentale per far vedere sui media il falso conflitto da portare in strada, inscenando finti scontri con la polizia con cui si è messo d'accordo prima. Chi vuole fare reportage di denuncia, chi giustamente vuole rendere note le violenze della polizia nei centri di reclusione, eccetera. C'è anche chi, come il gruppo anarchico Row Viconas di Atene, per scelta utilizza i video per documentare le proprie azioni, anche illegali, per propagandare le proprie attività, idee ed azioni. Di esempi potremmo farne molti. Ma qual è, per chi scrive, il senso di non accettare video e foto durante le proprie iniziative? Cercheremo di spiegare il senso di questa scelta che deriva da anni di esperienze di lotta in cui il ruolo di chi utilizza queste pratiche è volutamente o inconsapevolmente pericoloso per la incolumità di tutti e tutte. Facciamo degli esempi storici. Quando Sole e Baleno nel 1998 morirono nelle galere di questo paese, fu anche e soprattutto per il ruolo della stampa, che con la sua infamia, con le sue penne velenose, gettò fango su di loro e altri compagni anarchici e anarchiche, sulle occupazioni di Torino, sulle prime azioni dirette in Piemonte contro il TAV. Al funerale di Baleno, questi ignobili personaggi ebbero il coraggio di andarci, anche se invitati anticipatamente a non presenziare. Uno di essi si presentò e si prese quello che gli spettava. Il compagno poi indagato fu costretto a 9 anni di latitanza per evitare il carcere a seguito della giusta aggressione all'infame. L'odio per i pennivendoli nel movimento anarchico, e non solo, è da sempre radicato, visto che sulla carta stampata solo falsità ed infamie emergono da anni e anni. Per fare un esempio più recente, passiamo al 2016. Al corteo contro le frontiere al Brennero, nel maggio di quell'anno, circa 600 compagni e compagne andarono presso quel confine per protestare contro le barriere che l'Austria voleva mettere per controllare il passaggio degli migranti. In quel corteo ci furono scontri ed arresti. Al processo tuttora in corso ci sono 126 compagni e compagne alla sbarra e sono stati richiesti oltre 330 anni di condanne. Quel giorno c'erano una infinità di giornalisti, possiamo anche dire che forse c'erano anche dei media attivisti che volevano documentare quella giornata per dare risalto a quella protesta. Questo non possiamo non dirlo. Ma quando si è arrivati a processo, centinaia di ore di video e migliaia di foto furono utilizzate da procura e pubblico ministero per individuare chi aveva fatto cosa e quando in modo alquanto scrupoloso. Compresi non solo gli scatti e le riprese della polizia, ma anche foto e video caricati sui siti, senza nascondere le facce, senza nascondere l'identità di nessuno, facendo il gioco della sbirraglia. Un'altra vicenda dovrebbe far pensare. Il 20 febbraio 2002 la Digos, per conto della Procura di Genova, fece delle perquisizioni nei nodi dell'allora Indimedia a Torino, Bologna, Firenze e Taranto. Il tutto per cercare materiali video e foto sui fatti di Genova 2001. Sappiamo bene che dei compagni e compagne furono condannati fino a 15 anni, alcuni sono ancora in carcere. Un compagno invece è stato recentemente arrestato in Francia e poi rilasciato, dopo 8 anni passati in latitanza per non dover scontare 12 anni di pena. Questa faccenda in breve ci insegna che anche se non si pubblicano quei materiali, essi, se non ben nascosti, possono finire nelle mani degli inquirenti. Questo succede perché spesso si sottovalutano le conseguenze di questo modo di fare controinformazione, figlio del fatto che in generale da molti viene sottovalutato il lavoro degli sbirri nel suo insieme, ma soprattutto vengono sottovalutate le ragioni di chi crede che le strade devono essere conflittuali, ostili alle autorità. Chi mira a un cambiamento radicale della società pensa che per ottenerlo si debbano per forza commettere atti illegali ed è quindi necessario tutelarsi dalle ripercussioni giudiziarie, che passano sempre più da riprese, fotografie, intercettazioni informatiche e telefoniche. Quindi, quando scendiamo in strada, pensiamo che chi voglia fare questa attività senza il consenso dei partecipanti debba stare dal lato della Digos, in modo tale che sia riconoscibile, perché così tutti e tutte sanno che non è parte attiva dell'iniziativa. Deve farsi riconoscere per quello che è e sta facendo, anche se non lo sa o non lo pensa, e meglio ancora se non si presenta proprio. In più, quando si scende in piazza, può succedere che ci sia qualcuno che voglia resistere alle cariche della polizia, rispondere alla violenza fascista o statale, o comunque con violenza o comunque con pratiche di resistenza, che anche quando sono pacifiche, passive, non violente, possono essere passibili di denunce. Non tenere conto di questo aspetto è quantomeno da ingenui e chi non lo capisce deve essere allontanato anche se in buona fede. C'è chi, come noi, si è stufato di queste persone che in nome della libertà di riprendere e fotografare, documentare tutto e tutti, decide di allontanare anche... E così, ripeto, c'è chi, come noi, si è stufato di queste persone che in nome della libertà di riprendere e fotografare, documentare tutto e tutti. E così... C'è chi, come noi, decide di allontanare, anche in modo deciso, chi non rispetta la scelta di non essere ripreso o di non voler proprio utilizzare certi strumenti. Aggiungiamo anche che quando una piazza si scalda e diventa conflittuale, pretendere di non essere immortalato è ancora più legittimo. Pubblicare poi immagini senza rendere anonime le persone rischia di entrare nella forma della delazione volontaria o anche involontaria, quando dettata da stupida sottovalutazione. Perché ci sarà poi chi, in sede di tribunale, dovrà rispondere alle accuse di sbirri, procuratori e pubblici ministeri. In più esiste anche l'aspetto, diciamo, dell'educazione, cioè chiedere prima se si possono fotografare, registrare, filmare le persone in piazza, cosa che di solito fa piacere se chiesta in anticipo, ancora di più fa piacere se viene rispettata la scelta di non volere niente di tutto questo. La Digos e i ROS, le telecamere private pubbliche, fanno già il loro lavoro di spiarci, tutte cose che limitano il conflitto in questa società e che vanno tenute in considerazione per evitare arresti e denunce. Non occorre aggiungere altri materiali sporchi a tutto vantaggio di questi signori. Ecco perché non vogliamo foto e video. Intanto stiamo ascoltando i Nulla Osta, band croata, esattamente di Pola, da questo loro split 12 pollici assieme ai Warfare di Gorizia, album questo che è uscito nel 2019. Oh! Ecco, quasi in chiusura di Zardins Magnetics, ricordiamo anche un'altra iniziativa che si terrà sempre sabato 12 dicembre, è sempre a Trieste però al mattino, dalle 10 alle 13. Allora, è un'iniziativa contro l'Italia, la sanità pubblica e contro le spese militari. È organizzata dal BDS, il comitato BDS boicotta, disinvesti, sabota Israele di Trieste, e poi altri gruppi, gruppo anarchico Germinal, Salam ragazzi dell'Olivo, comitato di Trieste, sinistra anticapitalista di Trieste, assemblea no CPR no frontiere FVG. E appunto vi dico solo due, non c'è tempo di leggere il volantino, comunque verrà distribuito, invitiamo a partecipare insomma per chi può, e verrà distribuito. E leggiamo solamente un dato: e negli ultimi 10 anni meno 37 miliardi di, cioè meno, ci sono stati tagli alla spesa sanitaria per 37 miliardi, quindi hanno tolto alla sanità 37 miliardi, e invece per le spese militari solo nell'anno 2020 ci sono stati 26 miliardi in più. Già questo dato, insomma, parla da solo. Poi chiaramente, essendo un'iniziativa organizzata dal BDS, c'è anche un riferimento alla continua collaborazione con lo Stato criminale di Israele da parte dell'Italia. Allora, Largo Barriera, sì, l'iniziativa è in Largo Barriera a Trieste, sabato 12 dalle 10 alle 13. Ricordo ancora invece poi l'altro presidio, il presidio davanti al Coroneo, che organizziamo come assemblea permanente contro il carcere e la repressione, sempre sabato 12 dicembre dalle ore 14 in poi, appunto in solidarietà e vicinanza con i detenuti e le detenute di quella galera. Beh, in chiusura saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, un saluto particolare a chi speriamo ci ascolti, speriamo ci sia qualcuno che riesce ad ascoltarci anche da situazioni di prigionia e di limitazione della libertà personale, va un saluto particolarmente caloroso, e ricordo anche i nostri contatti, la mail liberetutti@autistiche.org, e poi un indirizzo per scrivere tradizionalmente a mano o come si vuole, e per spedire con il francobollo: Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 34 121 Trieste Centro. Un saluto e alla prossima. Bene, e siamo quindi, ricordo che siamo all'ascolto di questo, cioè siete all'ascolto di questo programma Casardins Magnetics in diretta radiofonica ogni giovedì dalle ore 20:15 circa alle 21:30 e stiamo trasmettendo qui da Udine da Radio Onde Furlane. Perciò saluti a tutti e ci risentiamo il prossimo giovedì e vi lascio all'ascolto di questo ultimo brano sempre di questa band croata, i Nulla Osta.